Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Pillole di consapevolezza Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono sempre Elisa Pasquini e faccio parte di Energicamente e come ormai avete imparato a capire mi occupo di consulenze di rimedi floreali. Nelle prime tre puntate avevamo iniziato a guardare il meraviglioso mondo dei fiori di Bach. In questa quarta ed ultima puntata dedicata ai fiori di Bach vedremo le ultime due categorie di fiori che ci rimangono e il più famoso è conosciuto dei fiori, il Rescue Remedy. Ma prima di iniziare la nostra puntata, come sempre, vi leggo un estratto da uno dei libri del dottor Bach. La psiche, che è la parte del corpo più delicata e più sensitiva, mostra con molta più precisione del corpo il punto di partenza e il cammino della malattia, in modo che è lo stato emotivo del malato che ci guiderà nella scelta del o dei rimedi necessari. Iniziamo quindi con il prossimo gruppo, fiori per lo scoraggiamento e la disperazione. L'ARCH, questo rimedio ristabilisce fiducia in se stessi. Quando ci si sente incapaci di fare bene le cose, si è convinti di fallire e di non poter ottenere successo, e di conseguenza si tende a non fare neppure un tentativo, ciò porta a lasciarsi sfuggire molte opportunità. ELM, le persone che necessitano di questo rimedio sono generalmente sicure e capaci. Finché non si trovano di fronte a un carico inconsueto di responsabilità o si sentono sotto pressione, la quantità di impegni che devono affrontare le porta a perdere sicurezza o a deprimersi. Sentendo di non riuscire a farcela, ELM ristabilisce la capacità di far fronte al carico eccessivo in modo equilibrato. PINE, questo rimedio è indicato per il senso di colpa, giustificato o meno che sia. Ci si potrebbe sentire colpevoli di qualcosa che si è fatto o non si è fatto, oppure biasimare se stessi per gli errori altrui. Talvolta si chiede perdono per azioni indipendenti da noi, altre volte ci si sente in colpa, ma si tengono segreti i propri sentimenti, esasperandoli, permettendo loro di crescere a dismisura. Poi aiuta a comprendere che non dobbiamo sempre rimproverare noi stessi, poiché anche gli altri possono sbagliare, qualora si sia davvero commesso un errore. Il rimedio aiuta ad alleggerire il fardello della colpa e ad andare avanti. Crapeppolo aiuta quando si ha la sensazione di essere poco puliti o contaminati da qualcosa. Talvolta si sente il bisogno di continuare a lavarsi le mani, o di rassettare, o di pulire con estrema meticolosità, ossessionati dal pensiero di germe e di sporcizia. Crapeppolo aiuta anche quando ci sente brutti o si prova vergogna del proprio aspetto. Come rimedio depurativo, Crapeppolo trascina via questi pensieri ossessivi. Star of Bethlehem, questo è il rimedio per chi ha subito uno shock. Traumi o perdite, ad esempio il lutto o il dolore causato da cattive notizie improvvise. Questo rimedio offre sostegno nei momenti di sofferenza. Sweet Chestnut, questo rimedio è indicato quando si sente di aver raggiunto il limite della sopportazione e non si riesce a vedere la fine della propria sofferenza. Nello stato Sweet Chestnut si è tentato più volte di trovare delle soluzioni, determinate a non arrendersi, ma tutto è stato vano e ci si trova totalmente avvilito e disperato. Il rimedio aiuta a dissolvere la tristezza e a ristabilire la speranza una futura felicità. Oak. Il rimedio Oak è indicato per le persone coraggiose che non cedono di fronte all'avversità. Quando malate combattono finché possono, provano una cura dopo l'altra, sentendosi tristi e abbattuti qualora la malattia interferisca con la loro vita e i loro doveri quotidiani. La loro naturale reazione alla stanchezza è quella di andare avanti senza prestarle attenzione, e un tale abuso delle proprie forze può contribuire a lungo andare a un deterioramento della salute. Il rimedio aiuta le persone in questo stato a mantenersi tenace, ma a condurre una vita più equilibrata, riuscendo così a riposarsi quando necessario. Willow. Questo rimedio aiuta quando ci si lascia andare al risentimento o all'amarezza. Si paragona la propria mala sorte alla buona sorte altrui. Si ha la sensazione che la vita sia ingiusta nei propri confronti. Ci si sente amareggiata al punto di perdere interesse nelle cose delle quali un tempo avevamo e si traeva piacere. Il rimedio aiuta a porre fine alla commiserazione e ad acquistare maggiore positività nei confronti della vita. Ultimo gruppo, fiori per l'eccessiva preoccupazione per il benessere degli altri. Fanno parte di questo gruppo cicori. In questo stato si assume un atteggiamento eccessivamente materno verso le persone care, talora al punto di iniziare a interferire nella loro vita. Talvolta si cerca a manovrare amici e familiari spinti da un impulso di manipolazione per indurre a starci vicino e a fare di noi il centro della loro vita. Questo rimedio aiuta a incanalare i nostri sentimenti in una direzione positiva, di esprimere il nostro amore, lasciando alle persone la propria libertà. Verbena. Questo rimedio è indicato per le persone che si sentono spinte a condividere le proprie convinzioni ed opinioni, ad persuadere gli altri a pensare come loro. Non riescono ad accettare ingiustizia e iniquità e sono pronte a combattere per ciò che ritengono giusto, sia che tali problematiche le riguardino personalmente o no. Essendo piene di entusiasmo, tali persone si lanciano nelle loro battaglie con tutta l'energia di cui dispongono, finendo talvolta per rogolarsi. Il rimedio è necessario quando le persone pervenenti si esauriscono o si fissano sulle proprie convinzioni, rifiutando di sentire altri punti di vista. Il rimedio aiuta queste persone ad affrontare i problemi con maggiore moderazione ed equilibrio. Vine. Le persone Vine sono nate per essere leader, sicuri di sé e certi di conoscere cosa è meglio in ogni situazione. Contrariamente alle persone vervaine, nello stato Vine non si incoraggiano discussioni e dibattiti e non si cerca di persuadere. Si comanda e si usa la forza di carattere per far sì che le cose siano fatte al modo proprio. Questo rimedio aiuta a ammorbidire la tattica di approccio o a fare la propria forza una virtù anziché un anno, e si è in grado di tenere sotto comando senza essere dominatori né dittatori di altre persone. Bitch. Nello stato bitch è difficile comprendere le difficoltà altrui. Errori, abitudini, difetti delle persone provocano irritazione, si diviene intolleranti e critici verso le imperfezioni e la loro apparente ottusità. Il rimedio bitch aiuta a essere più tolleranti e a capire anche altri atteggiamenti nei confronti della vita possono essere valide tanto quanto propri. Rock water. Nello stato rock water si tende a negare qualsiasi piacere a se stessi, assumendo un atteggiamento da martiri. Si può diventare moralistici o costringersi a un eccesso di autodisciplina, forzandosi oltre misura di raggiungere una sorta di ideale fisico o spirituale, al fine di porsi come esempio per gli altri. Rock water aiuta a rilassarsi e a pretendere meno da se stessi. È possibile porsi degli standard elevati, ma a livello più umano e ragionevole. Rock water è il solo rimedio non ricavato da fiori, piante e alberi. Si tratta infatti di un preparato a base di acqua pura, di una sorgente naturale nota per le sue virtù curative. Concludiamo con l'ultimo rimedio del dottor Bach, il Rescue Remedy. Il dottor Bach ideò un rimedio di emergenza che chiamò appunto Rescue Remedy. Si tratta della combinazione di 5 rimedi: Impatience, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose e Clematis. Vale la pena averne sempre una bottiglietta a portata di mano in caso di emergenza. La Rescue Cream, invece, contenente gli stessi rimedi, ha aggiunto Crab Apple e la pomata per la pelle dà molteplici indicazioni per uso esterno. Quando si usa il Rescue Remedy? Per situazioni stressanti e impegnative. È rimedio da usare infatti nei casi di emergenza, in caso di brutte notizie, improvvise, lutto, problemi familiari, spaventi, stati confusionali o persino terrore. Il Rescue Remedy aiuta a affrontare la situazione con miglior disposizione d'animo. Può venire utilizzato anche prima di affrontare una situazione stressante, ad esempio nell'attesa di notizie importanti, prima di un esame, di un test di guida, di un incontro impegnativo, di un'intervista, di una registrazione di una puntata di una radio, prima di andare in scena, tenere un discorso, andare dal dentista o entrare in ospedale. Il Rescue Remedy aiuterà a ridurre la paura e il nervosismo. Un ottimo rimedio per quando si è tesi ed eccessivamente turbati e solitamente ristabilisce l'equilibrio. Nel caso si aggiungesse questo rimedio alla nostra vita quotidiana, forse si consiglia di ripassare i fiori che abbiamo visto e trovare quello più specifico. Una dose di Rescue Remedy presa immediatamente dopo un incidente può contribuire notevolmente a mitigare gli effetti, aiutando il processo naturale di guarigione a seguire il suo corso. Quando si verifica un incidente in casa, all'aperto, per strada, eccetera, le persone coinvolte possono ritrovarsi disorientate e confuse. In attesa del soccorso medico, il Rescue Remedy può aiutare ad alleviare lo spavento, recando conforto e rassicurazione sia alla vittima dell'incidente che ai testimoni. E con questo abbiamo concluso la nostra puntata, quindi vi ricordo il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, la nostra pagina Facebook, i nostri numeri di telefono: Elisa 339-38-60123, Francesca 340-2345-340, Franco 329 89 89 669. Io vi saluto, con questo lascio la parola ai miei colleghi Francesca e Franco, che inizieranno con voi un'altra pillola di consapevolezza. Ma prima di salutarvi, come sempre, vi lascio con l'ultimo pensiero del dottor Edward Bach. Bisogna mantenere il nostro buon umore, rifiutare di lasciarsi abbattere dal dubbio e dalle depressioni, i quali, ricordiamolo sempre, non fanno parte di noi, in quanto l'anima non conosce che gioia e felicità. Io vi ringrazio, è stato un piacere portarvi con me in questo meraviglioso mondo dei fiori di Bach. Vi mando un grosso abbraccio e ci ritroviamo qui prossimamente con degli altri fiori e chissà quali altre nuove avventure, sempre su Radio Pink World. Un abbraccio da Elisa.